Ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. Le pietre. Al lume di candela. La natura in allarme. Ritiratosi il conte in camera sua, come niente fosse era, ed egli non era tranquillo. Sfogliava una dopo l'altra le pagine di Portugale penosa, ma senza capirle, e volendo attribuire questa difficoltà ora alla sua non raffinata conoscenza della lingua, ora alla scarsa luce della stanza, rifiutandosi il suo cuore di amico di ammettere che quel mondo altro non era che l'eco dolorosa di poemi ben più grandi e meritatamente celebri di cui il marchese fin dall'infanzia doveva essersi nutrito. E tutti insieme, d'accordo con quel sangue estenuato che gli portava nelle vene, gli avevano posto nell'anima quella sconcertante esaltazione. Ora egli parlava di tramonti adamiti, ora di golette inabissate, ora della lotta di due arcangeli simili a galli furibondi sotto l'ombra di un cactus al primo sole. Ora vedeva fanciulle delle guance di pesca e l'anima di diamante vestite come nuvole danzare in un bicchiere. Ora udiva voci soavissime e vedeva occhi verdi uscire dalle profondità del canale di Yucatan e invitarlo verso paradisi di pianto e ambiguità simili. Forse vi era anche del buono, e chissà che dopo tutto non si trattasse di simbolismo, di una maschera sibillina quanto verbosa per denunciare il famoso problema dell'oppressione. Tutto era possibile. Comunque, né a lui né alla Delchi, e forse neppure ai critici, toccava decidere. I due poemi, così com'erano, assolutamente incomprensibili, sembravano fatti apposta per provocare quella perplessità, quella noia, che sono sicura garanzia di vendita. Tale, lettore caro, era, come vedi, la mentalità del Daddo, che di libri nulla o quasi comprendeva, come voleva il secolo, e di ciò solo in parte lo accuseremo. Non per questo, dunque, non era tranquillo, né per la salute dell'amico, che non ne dubitava il successo stesso e un po' di denaro avrebbero prontamente ristabilito, quanto per un certo aspetto del cielo che andava ricaricando, per così dire, quella sinistra pesantezza, quel dorato livido languore del mattino. Il mare che si scorgeva dalla finestra scalcinata sembrava una immensa strada di pietrisco bruno sul quale si levasse da un lato immobile un tendaggio di velluto grigio. Una fumosità le cui fonti erano certamente in una nebbiolina che usciva dalle querce o nella primavera stessa sembrava avvolgere il mondo. Tutto era muto e calmo, ma con un che di straziante, quasi in un angolo di quello scenario qualcuno andasse ripetendo su una ukulele una frase musicale assai dolce. Egli udì anche per un istante i colpi di una zappa, forse dei fratelli Avaredo intenti alle cure dell'orto, poi il grido di un uccello oceanico, un grido nasale e come preoccupato che lo fece trasalire. E dopo di ciò il silenzio fu tanto che per forza egli dovette ricordarsi della iguana e chiedersi dove quella paurosa e infantile creatura si fosse cacciata. E a questa domanda seguì un sentimento non buono, come se vi fosse della malvagità nel mondo, come se vi fosse nell'aria qualcosa di contrario alla felicità e al bene, e di cui Estrellita stessa, nella sua stupidità, avvertiva però il terrore. Era sdraiato e si mise a sedere, mise da parte i due poemetti e si guardò in giro. La sua stanza, come tutte le altre, era arredata assai poveramente, per non dire che nascondeva la totale assenza di arredamento, con alcune guaste suppellettili. Qui un saccone di frasche su due tavole appoggiate a loro volta sopra rozzi scanni e una coperta non propriamente bianca e tutta sfilacciata che teneva anche luogo di lenzuolo costituivano il letto. Vi era inoltre un tavolo zoppicante, una catinella per lavarsi e un immenso armadio. Ora, fosse perché un'anta di quell'armadio a forma di cetra gli appariva appena aperta, come non ricordava di aver notato entrando in camera, fosse perché il mutismo dell'ora rendeva stranamente viventi tutte le cose, provò una inquietudine il conte che lo fece alzare e andare diritto verso quell'armadio. Che aperse per vedere se non contenesse, ormai non si sarebbe meravigliato di nulla, qualche uccello incatenato o una piccola tigre intenta a pettinarsi. Ma nulla di tutto ciò vi era, e quasi ne avrebbe sorriso se il suo greve cuore gliel'avesse permesso. Vi erano abiti e mantelli antiquati, ammassi un po' funebri di tulle rosa e verde, roba dei Caraibi, di Caracas, Rio Hacha e qualche terra ancora più a occidente. E, questa non se l'aspettava, vi era, tra quegli abiti fruscianti e splendenti come piumaggi di uccelli del passato, un braccio di legno, due, la sommità di una scala a pioli, una botola. Dopo di essersi cautamente introdotto nell'armadio, che era peraltro in quanto a profondità capace di contenere una stanza, egli non vide da basso la minima luce, né gli pervenne il più soffice rumore. Ricordandosi che la sua stanza era situata alle spalle della cucina, divisa da questa da un semplice corridoio, e che sotto la cucina si apriva il locale dove era scomparsa e strellita, ne dedusse, sbigottito da queste complicazioni architettoniche, di cui egli non si sarebbe mai macchiato, che estendevasi sotto la sua camera quella della domestica. E non che ciò gli dispiacesse, ma era irritato per la mentalità romanzesca e anche alquanto torbida dell'architetto, che aveva sentito la necessità di interrare viva una qualsivoglia creatura. Probabilmente, si disse, il locale aveva però qualche finestra a fior di terra, che adesso era chiusa, essendosi forse la bestia per la gran stanchezza o le lacrime addormentata. Questi ragionamenti, che per forza di cose prendono a narrarli un certo tempo, Aleardo li fece con una sveltezza di sogno, e mentre li faceva era già sulla scala. Una lampada a pila che aveva tolto al mattino a bordo della Luisa mandava avanti a lui una luce saltellante, una luce che pareva, imbarazzata, volersi ritrarre, chiedere protezione al suo proprietario. Thank you. Non aveva mai visto il conte, neppure visitando certi scantinati di Milano, caverne di questo genere. Vi era una specie di tana scavata dalle volpi che finiva in un punto assai piccolo e contro questo punto era schiacciato un letto, se tale può chiamarsi un mucchio di sudici sacchi, con sopra una striscia di tela. Questo era il luogo dove la servetta dormiva, in una tenebra assoluta. Più avanti, dove il locale si allargava, una cassa di bottiglie vuote conteneva in un angolo una scatola di cartone, dove, ben disposti, stavano alcuni fazzoletti da testa e in una carta velina, insieme a qualche pietrina colorata, la sciarpa che la iguana aveva avuto in regalo dal conte. La cura con cui era stata piegata, come non dovesse essere più tolta, disse al conte molte cose, mentre non capiva che potessero significare quelle pietrine, se non qualche cosa di molto caro all'animaluccio. Portando ancora in giro l'ala bianca della sua ritrosa lanterna, uscirono dalle tenebre altri oggetti o simboli di oggetti. Un giornale, per esempio, disteso a terra e abbastanza pulito, malgrado la data fosse remotissima, con notizie di una revolução al Messico, fungeva da tavolo, presentando in bell'ordine un pezzetto di specchio, un piattino sbrecciato ma pulito contenente alcune nocelle, semi abbrustoliti e nient'altro. Ma più accanto, in una rientranza circolare del muro, vero e proprio accenno di pozzo, si vedeva una serie di pacchettini di misura ciascuno diverso dall'altro, come si usano nelle banche per mettervi il denaro, e legato ciascuno con uno spago. Il conte stava per avvicinarsi a vedere cosa contenessero quando un piccolo rumore su, in alto, lo consigliò di spegnere immediatamente la pila. La bestia, ignara della sua presenza, stava rientrando dalla botola della cucina. Udì poco dopo i suoi passettini e insieme, non visto, vide qualcosa, dato che la tetra luce della sera entrava ora dalla cucina fin là. La iguana, fornita come usano i bambini sulle spiagge, d'una paletta e un minuscolo secchiello, si diresse, senza nemmeno togliersi il fazzoletto dal capo, verso il punto dove erano i pacchetti e lì ne aperse uno, come per controllare, e il conte vide che conteneva pietre piatte e tondeggianti, tutte della medesima grandezza. Le guardò non con avidità, bensì con una specie di preoccupazione, come se pensasse il modo più acconcio di proteggerle, custodirle, dato che dovevano essere tutta la sua ricchezza, e nello stesso tempo si guardava intorno a cercare qualcosa. Poi, tolto dal ripostiglio un altro pezzo di carta e uno spago, rovesciò sulla carta il contenuto del secchiello, che erano altre pietre, assai più grandi, e mentre lo versava, un pianto secco e terribile nella sua silenziosità usciva da quegli occhietti. Rimase a guardare quelle pietre un attimo, come se dei beni della terra non le importasse affatto, col muso che era diventato pietra anch'esso. Poi si chinò e tutti quei ciottoli raccolse disordinatamente nel foglio di carta che legò con lo spago in quattro. Scavò in fretta e furia una fossetta e là dentro cominciò a nascondere accuratamente il tutto. Il conte aveva visto fare troppe volte questa operazione a Milano per non rendersi conto che quei rotolini erano per la disgraziata servetta denaro, o come tali le erano stati dati, ed essa li considerava. E ricordando le parole di Felipe a tavola sulle pretese della servetta, si rese conto che questa era la moneta che le passavano. Di qui, probabilmente, il grande malumore della bestia, i suoi nervosismi. Tuttavia, pensò, se essa era al corrente del nessunissimo valore commerciale di quelle pietre, perché mai le conservava con tanta cura? E si convinse che la creatura ignorava l'inganno di cui era fatta oggetto e gli parve che questo, da parte dei Guzman, non fosse bello. Ma la miseria e il bisogno suggeriscono questo e altro, senza dire che il marchese ignorava sicuramente, dato il suo stato mentale, questi fatti, ma prima o poi era necessario parlargliene. Il Dadora avrebbe voluto andarsene per non spaventare la creatura, ma non sapeva come fare. Ed ecco, su in alto, risuonare altri passi umani e forti questa volta. E subito dopo la voce di Felipe gridò: Iguana, dove sei? Sono qui, oh signor. Subito vengo, signor. Fu la precipitosa risposta. Servi la cena, che è tardi, e poi rientra subito nel pollaio. Il conte udì i duri passi che si allontanavano, attese che anche la creatura, che per qualche tempo non parve viva, uscisse e poi ritornò su. Il cielo appariva ormai tutto grigio, come fosse l'alba, e la casa sembrava morta. Poco dopo, come già al mattino, qualcuno toccò la sua porta, e ciò era il segno che in sala lo aspettavano. Andò.